Allora bene, 16:40 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Arriviamo alla seconda corrispondenza che abbiamo previsto per la puntata di questa settimana e ve l'abbiamo detto nel breve sommario. Siamo in corrispondenza con una persona che ci ha contattato dalla Tunisia in merito alla situazione attuale nel centro d'espulsione di Ponte Galeria. Come sapete, insomma, è presente alle porte di questa città, molto vicino all'aeroporto, un centro d'espulsione e il 31 dicembre verso l'ora di cena c'è stato un tentativo di fuga di massa che è stato represso dalle forze dell'ordine. Sappiamo pochissimo di quello che è accaduto e sappiamo però che nelle ore subito dopo ci sono stati dei trasferimenti in altri centri che in queste ore, in questi giorni stanno vedendo altre proteste, proprio perché nella giornata di ieri sembrava fosse prevista un'espulsione di massa in Tunisia, quindi ci sono state diverse proteste, diverse resistenze a questa espulsione. Da Ponte Galeria in queste ore siamo venuti a sapere che per diversi giorni le persone hanno dormito tra la mensa, alcune sono state anche spostate nella sezione femminile, alcuni hanno dormito proprio all'aperto, al gelo di questi giorni che sentiamo anche noi qui fuori. E con te al telefono vorremmo partire da appunto un po' un allarme rispetto all'emergenza che si sta vivendo a Ponte Galeria, centro d'espulsione che purtroppo hai conosciuto anche te, hai attraversato nei mesi appena trascorsi. Quindi un attimo solo che facciamo una breve traduzione in francese e procediamo così in questa chiacchierata. Ok, salut, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Ok, on a juste présenté la ce qu'on va parler maintenant avec toi. On a dit que les jours de l'âne, les 31 exactement, il y a eu une tentative d'évasion dans les centres de rétention ici à Rome. Et bon, avec toi, comme que tu nous as dit qu'il t'es sorti de là il y a un mois et demi, on veut parler de ton expérience, on veut partir avec ton expérience là-bas et voilà, on va partir comme ça et après d'accord. On va discuter sur ça. Et donc, juste un moment, je vais faire la traduction, donc... Seulement un moment, quindi gli ho chiesto un po' appunto di partire un po' dalla sua esperienza, perché come ha detto prima la compagna, lui è uscito da circa un mese e mezzo da Ponte Galeria, e quindi un pochino di pazienza poi per la traduzione. Allez, tu peux aller, tu peux aller. Tu peux parler si tu veux, Oui, oui. Ok. Alors, j'ai des amis là-bas, des Tunisiens, des Afghans, des Africains, des Marocains, des Algériens. Ils m'ont appelé dans mon portable ici en Tunisie, ils m'ont dit de passer leur voix parce qu'ils ne peuvent pas téléphoner à les associations. Alors la situation est terrible là-bas. Après le feu qu'il y a eu dans les chambres, les gens là-bas dorment à l'extérieur, dans ce froid glacial. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Ils dorment à l'extérieur, dans ce froid glacial. Ok. Aussi, les soins médicaux ne sont pas sérieux. J'ai vu mes propres yeux des malades qui les emportaient en Tunisie avec des jambes et des mains cassées. Le chauffage dans les chambres, l'air chaud dans les chambres ne fonctionne pas. Et ils allument les lumières à 8h du soir et les éteignent à 11h. Et aussi, lorsque l'avocat vient vous voir, il ne vous ramène pas un traducteur. Et beaucoup de gens ne parlent pas l'italien là-bas. Okay. Si un avocat voulait traduire sur son téléphone portable, il ne le laisse pas faire ça. Ok, juste un moment, je vais faire la traduction. Donc, Innanzitutto, ci ha detto che proprio negli ultimi giorni ha ricevuto molte telefonate di amici, di persone che conosce, che ha conosciuto lì dentro, soprattutto di origine nordafricana, quindi Tunisia, Marocco, e ricevendo informazioni molto molto drammatiche di lì dentro, soprattutto perché le persone esprimono la problematica che non riescono a far uscire fuori nessun tipo di comunicazione, e questo l'abbiamo detto insomma ormai anche noi da tanto tempo, è molto difficile comunicare con fuori, non è perché le persone non hanno appunto il telefonino come prima, e hanno molta difficoltà appunto nella comunicazione. Ciò che è successo, come dicevamo anche in precedenza, che dopo che è stato appiccato un fuoco, un incendio lì dentro, le persone sono state lasciate fuori, quindi dormono fuori. Credo che tuttora la situazione sia ancora di questo tipo. Nell'emergenza totale che insomma stiamo vivendo tutti un po' in tutto il mondo, una delle questioni che preoccupa di più è proprio quella delle cure mediche, che sono totalmente assenti. C'è un problema anche legato ai riscaldamenti, che vengono accesi molto poco, se non proprio non vengono accesi affatto. Poi ci diceva che per esempio l'utilizzo dell'elettricità, anche le luci, vengono accese alle 8 di sera e spente alle 11, quindi comunque c'è anche poco tempo di luce proprio all'interno del posto. E un altro problema molto grosso è che neanche la comunicazione con gli avvocati, perché non vengono forniti i traduttori, ci sono molte persone che non parlano italiano, e quindi anche su questioni insomma proprio legate a diritti, come si dice, proprio generali, e comunque anche per comunicazioni, questioni burocratiche, non c'è la possibilità di portare avanti da parte delle persone le proprie stanze. Ok, tu continui, Stu. Aussi, monsieur, la nourriture là-bas, vous ne pouvez pas le manger. Par exemple, le poulet, à l'intérieur, il y a du sang, et c'est tout bleu. Et ils nous donnent aussi des haricots, des pois chiches, des lentilles sans aucun goût. Par exemple, moi, quand j'ai rentré à la Ponte Galeria là-bas, j'ai pesé 90 kilos. Maintenant, quand je suis retourné en Tunisie, je pèse 70 kilos. J'ai baissé 20 kilos de poids. Okay. Et quand vous parlez ou vous faites un problème, ils vous mettent en isolement, comme ils le font en prison. Ok, je comprends. Oui. Alors, l'eau chaude de la douche ne fonctionne pas toujours. Des fois, c'est froid. C'est très froid. Il fait très froid. Ok, allora je vais faire la traduzione. Un'altra questione, insomma, anche questa purtroppo, di cui parliamo veramente purtroppo spessissimo, è legata al cibo, che insomma anche lì la situazione resta drammatica. Tutto quel cibo che viene servito, ci ha parlato di frutta, lenticchie, spesso è marcio, o comunque appunto dalle descrizioni totalmente immangiabile, e quindi lui per esempio ci ha raccontato la sua esperienza, che è entrato, che pesava 90 kg e ne ha persi 20 nel giro di un mese e mezzo, che comunque insomma fa capire, penso, abbastanza bene che tipo di situazione, anche a livello nutritivo, proprio cioè lì dentro. E poi un altro problema sempre legato alla vita quotidiana, quello dell'acqua calda, che in periodi del genere insomma è un bene abbastanza di prima necessità, che è anche quella totalmente assente. Quindi questo causa anche questo, poi insomma, ammalarsi e tutto quello che ci possiamo immaginare. E soprattutto ci diceva che nel momento in cui si alza minimamente la testa, si protesta un minimo, si dice qualcosa, la prassi è quella subito dell'isolamento, come giustamente ci ha ricordato lui, esattamente come avviene nelle carceri, come avviene in prigione. Allora, intanto chi è solito ascoltare questa trasmissione magari anche in passato ha sentito numerosi racconti da Ponte Galeria o da altri centri, e si parla di condizioni sicuramente drammatiche. Quello che va ulteriormente sottolineato è che stiamo parlando di un momento dove c'è una crisi sanitaria in corso, e dove ovviamente il rischio di ammalarsi, il rischio di contagio, il rischio anche di non ricevere alcuna assistenza medica è ulteriore. Noi abbiamo spesso ricevuto denunce di persone che stavano male, avevano bisogno di visite specialistiche, non venivano mai trasferite in ospedale. Insomma, una situazione che sicuramente è ancora più grave in questi tempi. Una domanda rispetto all'isolamento: come, insomma, si viene trasportati, dove, in che tipo di celle, quanto dura? Perché in carcere ha anche dei tempi, poi ha anche delle proroghe, ecco, però come funziona a Ponte Galeria e che cosa avviene in questo isolamento? Allora, il y a une question, on a un peu parlé du fait que, bon, là, dans les centres de rétention à Ponte Galeria, il y a toujours une émergence, et surtout maintenant qu'il y a tout le monde qui a une émergence pour, tu vois, pour les Covid. Oui, oui. On pense que là, surtout au niveau sanitaire, la situation c'est plus grave encore. Mais la question c'est, en particulier sur ce que tu as dit, par rapport au fait que s'il y a des gens qui disent quelque chose, comme tu as dit, ils sont isolés. Et on veut un peu savoir comme ça marche, comme ça fonctionne. Ça veut dire, tu es isolé, si tu fais des choses, tu vas dans quel endroit, dans les centres de rétention, et surtout pour combien de temps, si tu as des informations sur ça. Tu restes 10 jours, 15 jours, l'isolement. Ok. L'isolement, tu restes 15 jours, 10 jours, environ 10 jours, 15 jours. Ok. Et après, tu retournes à ta chambre. Ok. Et ça, normalement, c'est une punition pour des choses qui les gens font. C'est une punition, oui. Punition, oui. Ok. Et tu sais plus ou moins dans quel endroit les gens vont pour être isolés? Il y a des endroits en particulier Oui, oui. Il y a un endroit où il y a les filles, là-bas. Il y a quoi, pardon? Où il y a les filles. Ah, ok. Tu restes dans une chambre seule. Ok. Avec un lit, une toilette, une douche et tout. Et ça, c'est tout. Et ça passe beaucoup de temps, ça passe beaucoup de fois quand tu étais là? 5-6 fois. Et pour toi, tu étais isolé 5-6 fois? Non, pas moi. Ah, t'es in generale. Ok. Ma fai la traduzione perché. Ok, sì, appunto, avevamo chiesto un po' un po' più in particolare rispetto all'isolamento e quindi alla punizione. Diciamo che l'isolamento avviene in una cella specifica preposta proprio per questo. Si è completamente soli, si ha solo un letto e un bagno da poter utilizzare. Di norma dura tra i 10 e i 15 giorni, in cui appunto si resta proprio soli. Poi gli ho chiesto con quale frequenza e con, insomma, veniva utilizzato questo metodo, insomma, chiaramente punitivo, e lui mi ha detto che nel tempo che lui è rimasto lì dentro lo ha visto 5-6 volte, quindi insomma immaginiamo che ciò avvenga con una frequenza piuttosto elevata. Ok, ho un'altra domanda che è quella rispetto alla mensa, cioè quando lui è stato lì si poteva mangiare insieme oppure si è tutti separati nelle celle? Qual è la situazione adesso? Alors, on a une autre question sur en particulier sur la cantine. Quand il vous donne à manger, c'est vous mangez tous ensemble ou comme ça marche ça maintenant? Oui, on mange tous les chambres. Dans chaque chambre, il y a 8 personnes. On mange 8 personnes. Quindi, séparés. Et il vous amène à manger là, dans les chambres. C'est ça? Oui, dans les chambres. Ok, oui. Donc il n'y a pas la cantine, il n'y a pas des espaces communs pour... Il y a une petite salle comme ça où il y a une table et des chaises. Ok. Pour manger. Ok, là, et vous passez des tournations pour aller à manger. Non, c'est à côté des chambres. Ah, c'est à côté. Donc chaque chambre, il a une petite salle pour manger, c'est ça? Oui, okay. Une table et deux bancs. Pour manger, okay. Pour 8 personnes. Ok. Non c'è più la mensa comune. Non c'è, esatto, esattamente, insomma, non c'è più mensa comune, si mangia con i compagni di cella, diciamo, quindi tutti in 8, perché le celle sono composte da 8 persone, e quindi si, per capire, insomma, si è sempre con le stesse persone anche durante il momento della... Allora, un'altra domanda, iniziamo dalla fine del trattenimento a Ponte Galeria, ovvero... dall'espulsione, innanzitutto quante espulsioni ci sono state in un mese e mezzo dove sei stato tu, come è andata la tua espulsione, se eri da solo, se eravate in gruppo, e dopo ti chiediamo un po' invece l'arrivo in Italia e come è andato. Alors, l'autre question, c'est en général sur la déportation. Et quand tu étais là, tu as vu beaucoup de déportations, et, enfin beaucoup de gens qui étaient déportés, et sur ton expérience en particulier, oui. Toi, tu as été expulsé tout seul avec autres gens. Dis-nous un peu comment c'est passé. Chaque semaine, il arrive à 40, 80 personnes. 50 personnes, 40 personnes dans la semaine. Ok. Si tu fais pas l'asile, ils te ramènent directement en Tunisie. Si tu fais l'asile, alors tu restes un mois, deux mois, trois mois. J'ai vu des personnes qui ont resté cinq mois et demi, et après ils les ont emmenés en Tunisie. Ok. Ok, je vais traduire ça, après tu vas parler un peu de ton esperienza. Dunque, rispetto alla deportazione, in generale, la situazione è questa. Lui dice che ogni settimana entrano circa tra le 50 e le 60 persone. Quindi insomma si parla di un numero abbastanza cospicuo di persone. Poi se tu hai la possibilità di fare richiesta d'asilo, il tempo che poi diciamo che si rimane lì, diciamo, incastrati lì, è tra l'uno e i tre mesi. Però lui diceva che ha conosciuto anche persone che sono state anche per più tempo, quindi parliamo di addirittura un tempo che arriva fino a cinque mesi. Ovviamente per chi poi non ha la possibilità di completare tutta la domanda d'asilo, la deportazione è quasi immediata, quindi praticamente si arriva e si rimane parcheggiati lì per poco tempo, diciamo più o meno una settimana, e poi viene subito organizzata la deportazione. Insomma, questo è un dettaglio abbastanza importante, ne parlavamo anche a fine dicembre con i compagni e le compagne a Torino, che più o meno il metodo è questo. Et donc sur l'expérience qui tu as eue, c'est tu as été expulsé tout seul avec autres gens, et comme ils ont dis-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Je suis expulsé avec 40 personnes, 15 personnes qui sont arrivées de Milan, et 10 personnes qui sont arrivées de Bari, et les autres de Rome. Ok. Et c'était un vol seulement pour vous? Ils nous ont ramenés à Palerme, à l'aéroport de Palerme. Ok. Alors, ils m'ont porté le jeudi. J'ai rencontré le consul tunisien. J'ai parlé avec elle. Alors, elle m'a donné une autre chance pour faire l'audience. Mm-hmm. L'audience parce qu'ils m'ont fait une audience en octobre 2021. Alors, l'avocat n'a pas pu faire quelque chose pour moi parce que ils nous ont ramenés jeudi, et moi je suis retourné à Rome le vendredi. Alors j'ai resté vendredi, samedi, dimanche. Dimanche ils m'ont ramené une autre fois. Alors, j'ai trouvé un autre consul tunisien. J'ai parlé avec lui pour qu'il me donne la chance, parce que l'avocat ne peut pas faire quelque chose pour moi. Tu sais que vendredi, samedi, dimanche, la tribunal est fermée et ne peut pas parler avec le juge. Mmh. Alors, il m'a porté en Tunisie. Et moi, j'ai fait la protection internationale. J'ai demandé la protection internationale de l'Italie avec des documents, avec des photos. Et j'ai parlé que j'ai des problèmes avec des gens en Tunisie, aussi avec la police tunisienne. Mm-hmm. Tu m'entends? Si, je t'entends. Ouais. Avec des documents et des photos, Okay. Beaucoup de choses que j'ai ramenées avec moi. Ok. Et cette documentation, c'était pas suffisant pour l'asile? Pour l'asile, oui. Ok. Ils m'ont ramené en Tunisie. Alors, en Tunisie, ils m'ont arrêté 4 jours. Ils m'ont frappé. Ils m'ont insulté. Et je suis sorti avec une... je ne sais pas dire en français. Comment dire? Didi, comme toi. Alors, je suis sorti libre après 4 jours en Tunisie. Ok, je vais faire la traduction, ok? D'accord. Ok, allora, dunque, partendo un po' dalla sua esperienza specifica, il suo volo. Juste en question, tu te souviens de quelle compagnie, tu as voyagé avec quelle compagnie? C'était Alitalia ou. Non, in Italia, in compagnia spagnola. In compagnia spagnola. Albatros. Okay. Ok, merci. Allora, gli chiedevo appunto se ricordasse con quale compagnia. Sicuramente non è l'Italia, è una compagnia spagnola con la quale è stato deportato. Albatros, non lo so, non la conosco. Adesso cercheremo di capire meglio. Comunque il suo volo era un volo ad hoc, proprio per la deportazione, che conteneva 40 persone. 15 di queste 15 persone venivano dal CPR di Milano, a dimostrazione anche di quanto, insomma, anche la logistica tra i vari centri sia abbastanza oleata. Poi la sua particolare esperienza è abbastanza particolare, perché lui è stato portato a Palermo un giovedì. E lì è riuscito a incontrare un console tunisino per la sua. Sono quelli che firmano l'espulsione. Esattamente, per il suo caso specifico. A quanto pare gli è stata data un'altra possibilità, perché lui, nella sua richiesta possibile di asilo, aveva una documentazione abbastanza ampia, di cui poi vi dirò un pochino. E quindi gli è stata data una seconda possibilità. È tornato a Roma con un volo. Quindi da venerdì, poi da venerdì a domenica, siccome è tutto, diceva giustamente, giudici non lavorano, insomma è tutto piuttosto fermo, la situazione non è mutata assolutamente, e quindi è stato rideportato di nuovo poi la domenica. E lì poi direttamente in Tunisia l'accoglienza non è stata per niente positiva, perché appunto lui nella sua documentazione aveva a quanto ci ha detto vari documenti che dimostravano il fatto che lui proprio il motivo per cui non potesse stare lì in Tunisia, quindi una documentazione abbastanza ampia a quanto ci ha detto, che però non è servita per la richiesta d'asilo. È arrivato in Tunisia, è stato 4 giorni in carcere, è stato insultato e malmenato dalle guardie lì, fino a che poi non è uscito appunto dopo 4 giorni molto poco piacevoli all'interno. Allora, io avrei una domanda che è relativa all'ingresso qua in questo paese, perché abbiamo visto in questi mesi come si sono comportati gli stati europei, insomma, con queste navi quarantena. Quindi persone intrappolate in mare o nei centri, nelle isole, e molte delle persone, per esempio, che si trovavano nel centro di espulsione di Milano venivano proprio dalle navi quarantena, quindi da lunghi periodi già intrappolati in delle prigioni in mare, essenzialmente, e quindi poi hanno visto solo delle gabbie e sono stati poi espulsi, tant'è che molte delle proteste che ci sono, anche l'ultima in questi ultimi giorni, penso ieri, a Milano, era in merito a un tentativo di espulsione grosso. Tra l'altro questo giovedì ricorre, sì, un po' con le espulsioni, sì, in Tunisia, come ci raccontava lui. Esattamente. E insomma, qual è la sua storia d'ingresso? Che cosa è accaduto quando ha provato a entrare in questo paesaggio? Ok, allora l'autre question c'est sur quand tu es arrivé en Italie, un peu sur ton histoire quand tu es arrivé ici en Italie, parce qu'en fait si tu on sait que il y a des navires des quarantaines ici, ça veut dire des bateaux où les gens ils sont presque en prison sur les bateaux et ils n'ont pas la possibilité d'accéder sur les territoires italiens. Et ton expérience était comment sur ça quand tu es arrivé ici en Italie? Mon expérience en Italie, à Pantelleria. À Pantelleria. On a resté 2 jours à Pantelleria, et après ils nous ont amené sur le bateau à Val di Ricci. Sur le bateau? Avec le bateau, oui. Ok. Ils nous ont porté à Val di Ricci. Ok. Val di Ricci. Ok. À hôtel Villa San Andreas. Mm-hmm. Saint-André pour faire la quarantaine. Ok. Et tu es resté là combien de temps? 14 jours. Ok. Et après, ils nous ont amené à l'aéroport de Palerme. Ok. Pour aller à Rome, à Pantelleria. Ok. Donc tu es arrivé en bateau, non? À Pantelleria, je crois. Oui, en bateau, oui. Ok. E allora, dunque, la questione appunto era per capire un attimo sull'ingresso, e lui è arrivato in barca a Pantelleria, è rimasto 2 giorni, poi è stato rimesso su un'altra barca che appunto è una di queste famose navi che dove si fa la quarantena, oppure dove si portano le persone a fare la quarantena in un altro posto. Lui è stato portato in questo hotel Villa Sant'Andrea, che credo si trovi, esatto, esattamente quello, dove ha dovuto rimanere per 14 giorni per fare la quarantena. Dopo questa quarantena è stato portato all'aeroporto di Palermo, dove poi appunto è stato a sua volta deportato a Ponte Galeria. E là vous avez reçu pendant la quarantaine. Vous avez reçu vous êtes soigné, comment ça passe la quarantaine? Qu'est-ce qu'il passe? Il n'y a pas une thérapie là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de médecin là-bas. En fait, vous êtes dans l'hôtel pour 14 jours comme ça. Okay. Sì, stiamo parlando di strutture in disuso, ovviamente, dato un turismo piuttosto assente, che ovviamente vengono riconvertiti in piccoli centri di detenzione. Sì, di esattamente. Fatto, di isolamento. La questione era appunto poi la quarantena, che succede, si fa il tampone, cioè che vuol dire quarantena? Semplicemente la quarantena è andare in un posto, stare 14 giorni, poi si viene ripresi e riportati da un'altra parte, quindi insomma. Un po' diverso dalla storia che ha riguardato nei mesi un po' più primaverili tantissime persone che sono rimaste un tempo davvero indeterminato sulle navi quarantena, però è un racconto, diciamo, di un pochino più recente, ecco, quando è anche iniziata un po' a rompersi un po' il silenzio su queste navi quarantena e su le tante proteste che hanno riguardato, certo, le persone intrappolate. Io non so se te vuoi aggiungere altro sulla situazione qua in Italia, però a noi interessa anche qual è la situazione in Tunisia, la situazione economica, la situazione sociale, anche perché della Tunisia, insomma, Se ne parla molto raramente, si sono accesi i riflettori quando ovviamente ci sono state forti proteste sociali, ricordiamo negli ultimi anni quelle contro i gasdotti anche contro il carovita, la disoccupazione, mi ricordo forti proteste anche nella capitale. Però ecco, quali sono le condizioni nel paese, oltre la tua storia individuale, ecco? Allora, sì, d'abord, si tu veux ajouter quelque chose sur l'Italie, sur des impressions que tu as eues quand tu es arrivé en Italie, ou encore sur les centres de détention, tu peux les faire. Mes impressions, j'ai voulu faire la protection internationale, parce que j'ai eu des problèmes à mon pays. Mm-hmm. Alors j'ai cru que l'Italie, un pays européen, un pays démocratique, un pays qui fait bien avec les gens, qui avec les associations humaines. Mm-hmm. Et la situation en Tunisie est très désastreuse. Le salaire minimum est de 450 dinars par mois, environ 130 euros par mois. Mmh. Et la location d'une petite appartement est de 400 dinars, environ 115 euros. Okay. Comment pouvons-nous vivre ainsi? Impossible. Oui. Mmh. Et les personnes qui traversent la mer paient environ 1500 euros de mois pour y arriver en Italie. Et beaucoup de gens meurent par noyade. Ouais. Et après, tu restes 2 mois ou 3 mois et ils te ramènent à ton pays. 2 mois, 3 mois, t'as dit, non? Oui, 2, 3 mois. Il y a des personnes qui ont resté 5 mois. Mm-hmm. Et là, toujours la risposta des recours. Mm-hmm. Et toujours négatif. Ok. Et ça, c'est lié à ton expérience, ça c'est sûr, mais je crois qu'on peut dire que ça, c'est quelque chose qui passe pour beaucoup de gens, non? C'est comme ça. Moi, j'ai resté 2 mois à Ponte Galeria. Ok. Ils ont laissé libre une seule personne. Il y a 280 personnes, ils ont laissé une seule personne libre. Ok. Donc la majorité, ils ont tout déporté. Oui. Ok. Et tu te souviens, c'était... en fait, tu as connu... Bon, sûrement tu as connu les gens qui étaient en selle avec toi, mais tu as connu autres gens aussi, là, dans les centres. Oui, à Ponte Galeria. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ok. Beaucoup de gens. Pas seulement des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Brésiliens, des Afghans, des Pakistanais, de l'Afrique noire. Ok, donc il y a gens qui viennent un peu partout dans le monde, non? Oui, oui. Mmh, ok. Je vais faire la traduction, juste un moment. Oui, oui. Ok, allora, in generale, rispetto anche alla domanda, che facevi tu, che poi insomma giustamente secondo lui le cose sono legate, ovviamente diciamo l'aspettativa è soprattutto il motivo per cui una persona decide di intraprendere un viaggio del genere, che come ci ha raccontato insomma è impegnativo sia da un punto di vista emotivo e fisico, perché insomma... Non c'è bisogno di aggiungere tanto su questo, si sa che intraprendere un viaggio del genere non si fa a cuor leggero, come spesso viene anche narrato, e soprattutto insomma da lì l'aspettativa che si ha è un po' quella di accedere a tutta una serie di quella che noi qui chiamiamo in generale protezione internazionale, che insomma, che rispetto all'Italia, che viene visto come un paese appunto europeo, democratico, in cui diciamo determinate cose potrebbero o dovrebbero essere garantite, l'aspettativa è un po' questa. Ovviamente poi quando si arriva qui tutto ciò viene meno in maniera abbastanza immediata e diretta, e tutto ciò è anche legato alla domanda che facevi tu rispetto alla situazione in Tunisia. La situazione adesso è da quanto ci racconta, molto complessa. Ci faceva un esempio per farci capire: un salario minimo arriva a 230 euro al mese e una stanza o una, insomma, un posto per vivere e dormire costa quasi il doppio o poco meno del doppio. Quindi insomma capiamo bene che le aspettative di vita, ma proprio più che aspettative, le possibilità anche immediate di vita sono complicate, e quindi diciamo questo è anche uno dei motivi principali per cui poi una persona è spinta a prendere determinate decisioni, fare determinate scelte. Poi tornando sempre appunto a Ponte Galeria, lui dice: questa è la mia esperienza rispetto alla Tunisia. Posso dire che la mia esperienza è un'esperienza tipica, nel senso che molte persone si ritrovano nella mia stessa situazione e quindi devono, diciamo, affrontare i problemi in questo modo. E la cosa, insomma, che più gli è rimasta impressa è che in 2 mesi di permanenza nel CPR di Ponte Galeria non è stata liberata una sola persona, cioè non ha visto nessuna persona che è uscita da lì, diciamo, da sola. E quindi le deportazioni sono tante, molte, sono la maggior parte. E quindi insomma e soprattutto non sono, come ci diceva, non solo in Tunisia, cioè quindi le persone che lui ha conosciuto lì, a parte insomma i suoi compagni di cella, venivano un po' dappertutto, cioè parla appunto sicuramente Africa del Nord, ma anche l'Africa subsahariana, Pakistan, gente, Brasile. Quindi comunque le deportazioni, a quanto si evince, avvengono un po' dappertutto. Alors, si tu veux, tu peux continuer. Si tu veux, encore un peu sur la situation là en Tunisie. La situation est très grave, très grave, très très très grave. Moi, j'ai laissé une femme et deux enfants. Une autre personne ne peut pas le faire. Laisser sa femme et deux enfants seuls en Tunisie. Moi, j'ai voulu faire la protection internationale et changer ma vie et faire du bien avec ma famille. Alors, je suis très très très déçu. Après 3 mois, je retourne comme ça sans rien faire. Et là, moi, j'imagine qu'il y a, c'est difficile de trouver pour travailler. En fait, c'est ça la complication, non? Oui. Selon toi, là, les motivations qui poussent les gens à partir, à aller en Europe en général, en Italie, c'est plus à côté. Oui. C'est lié surtout à ça. C'est lié surtout à la situation économique, au travail. Surtout à ça, mais aussi il y a des personnes qui ont des problèmes en Tunisie. Ok. Alors, ils vont en Italie pour faire la protection internationale, pour parce qu'il n'y a pas des associations humaines en Tunisie. Ok. Quand tu parles des problèmes, c'est en général, tu parles des problèmes au niveau politique, des gens qui ont participé à des protestes ou des problèmes en général? Oui, problèmes en général. Ok. De politique, problèmes humains, problèmes de santé, problèmes de tout. Hein. Ok. Allora, je vais faire la traduzione. Allora, ancora sulla situazione in Tunisia, chiaramente c'è la questione per come ce la racconta lui, dice che la questione proprio anche a livello di associazioni, di un minimo di tutela che si può avere lì sul territorio è completamente assente al momento. La situazione economica, come ho detto prima, è devastante, è drammatica, quindi diciamo dal suo punto di vista le motivazioni che spingono una persona a, ripeto, a fare una scelta del genere, che mai viene fatta a cuor leggero, sono, diciamo, principalmente di natura economica, ma non solo, perché poi a questo si vanno ad aggiungere tutta una serie di problematiche per cui molte persone sono proprio costrette ad abbandonare o a dover lasciare il paese per vari problemi che possono essere legati per esempio anche a questioni di salute, perché non si riesce ad accedere a determinate cure, ad esempio, o a, diciamo, altri problemi generali che riguardano, insomma, problemi di vita che tutti possiamo affrontare. No, nulla, se ha qualcos'altro da aggiungere, altrimenti noi siamo a disposizione, nel senso che questa è una radio che dà voce, ha dato voce per tanto tempo anche alle persone recluse a Ponte Galeria, quindi se a lui va di essere megafono, ben venga. E anche, insomma, se vogliamo risentirci anche nelle prossime settimane, noi siamo a completa disposizione, questi microfoni sono i suoi. Allora, si tu veux encore ajouter quelque chose, on t'écoute, sinon on veut te dire merci vraiment, parce que pour nous c'est vraiment très important d'avoir des informations sur ce qui passe dans les centres de détention ici en Italie, à Rome, parce que c'est comme tu as dit, c'est très difficile d'avoir des informations pour nous. Et pour cette radio ici, c'est très important de donner des informations directes sur qu'est-ce qui se passe là dans cette centre comme Ponte Galeria, comme il y a beaucoup d'autres en Italie. Et cette radio, nous sommes très contents de continuer d'avoir un contact avec toi. On peut fonctionner comme une sorte de mégaphone pour vous, pour donner des voix à des gens qui, en fait, ils ont de la difficulté à parler ou à donner des informations au dehors. Donc vraiment merci, et voilà, si tu veux ajouter encore quelque chose. Non, j'ajoute rien. Okay. Grazie, okay. Grazie. Grazie tanto, et comme je t'ai dit, si tu es d'accord, on peut essayer de te contacter encore, ou si tu as des informations, si tu connais des gens qui te donnent, te passent des informations ici de Rome, on peut faire circuler les informations, parce que pour nous c'est très important, ok? Oui, monsieur. Et ciao, vraiment merci, et bon courage. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir, ciao.